Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Ricreare una filiera industriale competitiva che vada dalle materie prime al dispositivo finale nel settore del fotovoltaico europeo e in particolar modo italiano. Questo è l'obiettivo di Ampere, un progetto europeo Horizon 2020 che ha preso il via nel 2017, ne parlammo proprio in quella occasione e ormai si avvia alla conclusione, una conclusione che sembra decisamente positiva. Il progetto coinvolge molti attori quali il CEA, Fraunhofer, Meyer Burger, Norsan, mentre per l'Italia abbiamo Enel Green Power che è la capofila di questo progetto, poi un'altra azienda, Rise Technology, e poi CNR ed Enea. E allora proprio grazie a una tecnologia messa a punto all'Enea verrà sviluppata a livello di linea una produzione di celle fotovoltaiche con una efficienza del 24,5%, che è davvero un'efficienza interessante nel momento in cui viene conseguita sul campo oltre che in laboratorio. Ne parliamo con Massimo Izzi del laboratorio tecnologie fotovoltaiche e fonti rinnovabili dell'Enea, nonché responsabile scientifico appunto per l'Enea per il progetto Ampere. Buonasera Izzi, benvenuto. Buonasera a voi, buonasera. Allora, intanto qual è l'obiettivo insomma di questo progetto, che dicevo un obiettivo molto importante? Certamente, l'obiettivo, come dicevi tu nell'introduzione, è quello di riguadagnare per l'Europa una parte del mercato della filiera del fotovoltaico che negli anni precedenti è andata tutto appannaggio del mondo, soprattutto nel sud-est asiatico e cinese. Dal punto di vista della produzione abbiamo perso un'ampia fetta di mercato, ma non certamente quella dalla parte del know-how, cioè dell'intelligenza e della capacità di innovazione. L'obiettivo di Ampere è quello di sviluppare una linea che possa riguadagnare per l'Europa appunto la competitività a livello mondiale sulla capacità di innovazione del fotovoltaico. Questa, come dicevi, va dalla produzione delle materie prime fino alla produzione finale, ecco, delle celle fotovoltaiche e dei moduli. Quando dicevo obiettivo molto concreto, che però si vuole arrivare a uno stabilimento a Catania da un gigawatt di potenza fotovoltaica all'anno. L'obiettivo di Ampere è quello di sviluppare una linea pilota completamente automatizzata nel centro di produzione di Enel Green Power di Catania. L'obiettivo del progetto era quello di avere 100 megawatt di potenza di produzione annuo a livello di moduli. L'Enel Green Power poi ha anticipato la sue soluzioni di sviluppo, l'ha portato già adesso a 200 megawatt. Lo sviluppo successivo della linea di produzione di moduli, celle e moduli fotovoltaici di Enel Green Power sarà nei prossimi anni, a fine 2022, di una capacità produttiva di un gigawatt, quindi stiamo andando verso capacità di produzione molto importanti. Molto significative. Inoltre tutto il progetto Ampere sarà all'interno di un grande progetto sostenuto da Solar Power Europe, l'associazione degli industriali europei, che insieme ad altri progetti che vanno dalla capacità di produzione del gigawatt fino ad aziende più piccole del megawatt, saranno in grado di veicolare, di riconquistare parte del mercato che abbiamo perso a favore dei giganti asiatici, diciamo così. Ecco, si punta a una tecnologia ad elevata efficienza, abbiamo detto questo è un tipo di cella anche particolare, proprio per evitare anche una concorrenza che sarebbe difficile con i mercati asiatici altrimenti. Certamente la tecnologia è ad alta efficienza, è bifacciale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che oltre che alla radiazione diretta del sole sulla cella e quindi sul modulo fotovoltaico, la cella bifacciale, come suggerisce il nome, raccoglie energia e luce anche dalla parte posteriore. Questo fa sì che abbia una capacità superiore di produrre energia durante tutto l'arco della sua vita. Veniamo al vostro contenuto. contributo specifico, perché c'era un obiettivo iniziale che era il 23%, 23,5% di efficienza, invece si arriva al 24,5% di efficienza grazie a che cosa? In particolare il contributo dell'Enea all'interno del progetto Ampere è stato quello di sviluppare nuovi elementi attivi della cella fotovoltaica. La cella fotovoltaica è una sorta di sandwich in cui ci sono elementi attivi che trasferiscono la luce all'interno della base di silicio per produrre energia elettrica. Uno dei problemi della cella fotovoltaica sviluppata all'interno del progetto Ampere è che parte della luce che doveva entrare nel silicio per produrre energia elettrica veniva assorbita sullo strato superiore, sul primo strato attivo, sulla prima parte del sandwich. L'Enea ha sostituito questi e sostituirà, perché il progetto è ancora in linea di sviluppo, sostituirà questi strati attivi assorbenti con degli ossidi conduttivi più trasparenti che il silicio amorfo, che era il materiale precedente con cui era costituita la cella fotovoltaica. Questo permetterà una maggiore produzione di elettroni all'interno della cella e quindi una maggiore efficienza del dispositivo finale. La difficoltà sta nel fatto che questo strato superiore del pannello della cella fotovoltaica deve da un lato essere trasparente per far passare la luce, ma dall'altro deve essere in grado di condurre l'energia elettrica. Per esempio un pezzo di vetro è molto trasparente ma non conduce l'energia elettrica. Questa era la difficoltà specifica. Quanto impatta dal punto di vista economico questa miglioria? Perché voi avete aumentato dell'1% l'efficienza delle celle e uno potrebbe dire ma non è granché. Un innalzamento dell'efficienza della cella fotovoltaica dell'1% produce un abbassamento sui costi di produzione dei dispositivi di celle e modulo fino al 6%, quindi è un impatto importante. Consideri che le aziende insomma si accapigliano per lo 0,2, 0,3, 0,5%, stapperebbero bottiglie di champagne, certo, tutti i giorni se potessero farlo continuamente. Grazie Massimo Izzi. Grazie a voi, buona serata. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Un saluto a tutti. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso! Su aruba.it